Io sono Fiorella Orazzo e faccio parte della Comunità per lo Sviluppo Umano di Napoli. E sono il coordinatore di questa realtà a Napoli. La comunità si occupa e fa parte innanzitutto del Movimento Umanista, che è una realtà non violenta internazionale. E si occupa a Napoli in particolare di promuovere quella che è la filosofia della non violenza attiva attraverso corsi sulla non violenza attiva e il lancio di un osservatorio sulla non violenza. Nei mesi scorsi si è occupata la comunità per lo sviluppo umano anche di giornate del baratto. L'idea delle giornate del baratto ci è nata da riflessioni sulla questione violenza economica. In quanto chiaramente penso sia sotto gli occhi di tutti la questione che questo tipo di economia vigente in questo momento, non solo nel nostro paese, ma nel sistema mondo, è un'economia che ha al centro sicuramente non l'esigenza degli esseri umani, ma che ha al centro il denaro e gli interessi finanziari. Quindi un'economia molto lontana dall'essere umano e le conseguenze di tutto questo sono visibili. Penso molto palesemente. Quindi questa giornata del baratto era nata come una piccola idea, un piccolo segno per poter promuovere le cosiddette economie alternative. Noi non pensiamo che il baratto sia la soluzione, a questo sistema economico, a questa crisi del sistema economico, ovviamente. Era un momento per sperimentare una giornata senza l'uso del denaro, innanzitutto, e poi sperimentare quindi un contatto più diretto tra le persone, che si scambiassero degli oggetti possibilmente da loro prodotti o comunque oggetti di uso quotidiano che in qualche maniera stavano anche a cuore alle persone che si sono approcciate in piazza. È stato molto interessante vedere come le persone chiaramente non sapessero dare in certi casi un valore agli oggetti che avevano davanti, no? Al di là del valore prettamente economico dei soldi, o invece in qualche caso capire il valore reale che invece alcuni oggetti di fattura propria avevano e forse rendersene conto anche di più rispetto alla quotidianità. Questo era anche un momento per riflettere sul fatto che evidentemente l'economia classica, chiamiamola così, è un'economia che comunque ha fallito e, come dire, tutti i giorni vediamo questo fallimento. Quindi riflettere sul fatto che c'è bisogno appunto di economie, chiamiamole alternative, nel senso che alternative a questo sistema vigente in questo senso, però probabilmente delle economie che sono più umane, che partono dalle esigenze specifiche dell'essere umano, che quindi tengano conto di quello non solo che è il prodotto interno lordo, piuttosto la borsa e la finanza, ma le esigenze primarie dell'essere umano, e quindi non solo la parte materiale, ma in qualche maniera anche una parte un po' più profonda, e un po' più interna dell'essere umano. Io credo che il sistema economico attuale sia sempre più in crisi e che tutta questa situazione, anche in particolare del governo italiano, ma visto che siamo qui lo conosciamo meglio, di arrabattarsi tra le varie finanziarie sia proprio la dimostrazione di questa crisi. Credo che non, in questo momento storico, almeno questa è la mia visione, non da economista, ovviamente. Non sia fattibile, non sia pensabile un sistema economico che vada bene a livello mondiale. Credo che ci sia bisogno invece di varie economie locali che si mettano in rete. Probabilmente questa è la soluzione, perché nonostante la globalizzazione, nonostante la mondializzazione, comunque le varie aree della terra restano diverse all'interno di una stessa nazione, di una stessa regione. Quindi credo sia impensabile, forse uno dei fallimenti dell'economia mondiale è proprio di aver pensato che questo tipo di economia andasse bene ovunque. Quindi credo che ci sia bisogno invece di focalizzare l'attenzione su piccoli modelli economici, che poi appunto, come dicevo prima, si mettano in rete tra loro, chiaramente per non rimanere piccoli modelli isolati che comunque imploderebbero in qualche maniera. Quindi io ci credo fortemente nelle economie cosiddette alternative e ripeto, ce ne sono tantissimi di esempi. La nostra giornata era solo un piccolo esempio, soprattutto per la riflessione su queste tematiche, ma ci sono tantissimi esempi. Ci sono reti di economia solidale, i cosiddetti GAS, cioè i gruppi di acquisto solidale. C'è la bellissima esperienza nata tra l'altro a Napoli dello SHEC. con l'associazione Masaniello, ci sono reti di acquisto solidale attraverso il baratto, cioè ce ne sono veramente tante, e hanno dimostrato nel tempo che riescono non solo ad autosostenersi queste reti e questi piccoli gruppi, ma hanno anche dimostrato di riuscire in qualche maniera a fare un'azione di boicottaggio rispetto a quella che è la finanza classica, che comunque questi gruppi come noi ritengono violenta. Quindi hanno dimostrato di togliere in qualche maniera materia prima, che poi è l'essere umano che sceglie praticamente a livello economico. Quindi sono fruttuose queste cosiddette economie alternative. E come ripeto, forse la mancanza, diciamo, il limite di queste economie in questo momento è appunto che non sono ancora state messe in rete, e che chiaramente è difficile che queste economie si mettano in rete, anche proprio per come funziona il sistema economico attuale. Credo che però questa crisi in qualche maniera potrebbe agevolare invece queste economie alternative, un po' per esigenza, perché credo che gli esseri umani si siano resi conto e si stiano rendendo conto sempre di più che sicuramente questa economia vigente non può andare avanti in questo modo. Quindi c'è sempre più gente che si avvicina ai sistemi economici cosiddetti alternativi. Io dico cosiddetti perché credo che in realtà non è che siano alternativi, sono proprio un'altra cosa. Cioè non sono dei sistemi economici che si contrappongono al sistema finanziario attuale, sono una cosa altra. Quindi e questo significa che in qualche maniera non entrano proprio nel sistema economico finanziario attuale, no? Quindi in questo senso dico cosiddette alternative, perché sono proprio un'altra storia, non è che sono o quello o l'economia alternativa o la finanza classica, no, sono proprio due cose diverse. Che chiaramente però, come dire, le economie alternative dimostrano che, essendo più a misura d'uomo, sono più gestibili anche dagli esseri umani, perché molto spesso l'essere umano è incluso in un sistema economico che non comprende, e quindi, non comprendendolo, non ha neanche la possibilità di scegliere, chiaramente. Mentre un sistema economico di tipo alternativo, nel senso più umano, è un sistema economico che l'essere umano comprende, quindi riesce anche a scegliere tra prodotti diversi, a scegliere non tanto sul bisogno indotto da parte delle potenze economiche e finanziarie, ma a scegliere sui bisogni reali che l'essere umano ha quotidianamente. Dicevo prima, questa crisi in qualche maniera agevola, perché le persone si rendono conto che non ci si può ancora arrabattare in queste strade finanziarie, l'economia mondiale, in questa maniera così inumana. Quindi sicuramente le persone sono spinte a cercare dei sistemi diversi, e dei sistemi chiari, puliti in qualche modo, non dei sistemi che poi alla fine ci fanno scoprire che dietro il nostro movimento finanziario, economico, eccetera, c'è il finanziamento alla guerra piuttosto che lo sfruttamento dei lavoratori in un paese lontano da noi. Ecco, penso che ormai questi sono argomenti alla portata di tutti, e tutti ci stiamo rendendo conto di qual è la situazione grave che questo sistema economico ha portato. Per quanto riguarda la questione italiana nello specifico, io credo che l'Italia ancora non abbia subito forte il contraccolpo della crisi economica, e che ancora ci stiamo entrando, quindi questo insomma ci dovrebbe far riflettere, perché ancora non stiamo entrando e siamo già in recessione. Non oso immaginare cosa succederà tra poco, quando nella crisi ci entreremo a pieno e in qualche maniera le misure finanziarie ed economiche che si stanno prendendo in questo momento credo vadano nell'agevolazione di questa crisi in qualche maniera, perché non mi sembra che siano stati fatti grandi cambiamenti, ecco, considerando l'essere umano come valore centrale. Penso proprio che si stanno andando da un'altra parte, quindi temo che questa cosa agevolerà questa crisi da una parte. È qualcosa di molto complesso, perché significa che le persone non saranno pronte totalmente a questa crisi. Però ecco, sicuramente cominciare a riflettere su queste tematiche può essere un modo per poi come dire, reggere il colpo quando arriverà totalmente la crisi, e quindi eventualmente trovarsi a dover utilizzare dei sistemi alternativi e in qualche maniera sicuramente più umani. Napoli è sicuramente una città molto complessa. Molto complessa perché ha un'economia alternativa di suo, in maniera negativa, diciamo. Nel senso che in qualche maniera, da un punto di vista, diciamo, ideologico generale, forse è la città più autarchica che abbiamo in Italia, nel senso che poi si è sempre auto-organizzata in qualche maniera, però certo è un'auto-organizzazione non di tipo umano, come lo intendevo io prima, ma è un'auto-organizzazione che comunque utilizza i criteri negativi di questo sistema. Quindi un'auto-organizzazione che non è di tipo solidale, non è di tipo pacifico nemmeno in certi casi, sicuramente non violento. Quindi è ancora più complesso perché in qualche maniera un'economia alternativa esiste, ma è sporca anche questa. Però non credo che non si possa, sicuramente è più complicato, però ecco l'esperienza dello SCEC, per esempio, o dell'economia dei distretti solidali, o di altro mercato nel suo piccolo, perché a Napoli purtroppo non ha avuto questa grande diffusione, dimostrano queste piccole esperienze che comunque si può, perché c'è una fascia di popolazione interessata a tutto questo. E incredibilmente in questa fascia molto spesso rientrano anche parti di popolazione che noi non ci aspetteremmo. Persone, utilizzo questo termine che non mi piace, ma ci fa comprendere quello che voglio dire, del popolino, cioè persone comunque non di estrazione elevatissima, che però si rende conto che questo tipo di economia è sicuramente più utile perché è più gestibile, ecco, lo capisce chiunque. Anche questo è interessante perché è alla portata di tutti, non c'è bisogno di essere un economista per comprendere questi sistemi. Quindi incredibilmente si trova appoggio poi anche da parte di chi non ci si aspetta. Quindi io penso che sia un po' più complesso perché bisognerebbe schiodare determinate idee dalla testa di molte persone, però sì, io credo sia possibile comunque perché anche un minimo di apertura c'è su queste cose, ma soprattutto io penso che ci sia l'esigenza più forte in queste città rispetto ad altre città. Quindi lì dove c'è l'esigenza, le persone si mettono anche in qualche maniera in ascolto rispetto a determinate cose. Quindi sì, io sono ottimista da questo punto di vista.